Benissimo, siamo qui, siamo finalmente tornati. Che meraviglia. Sentite oh, non c'è la voce di Diego. Lui se n'è andato. È andato bene. Noi, per fortuna, abbiamo preso un po' di spazio per noi. Finalmente, per me e per te, Dennis. Per tutti noi. Cos'era quella pubblicità? Per me, è tornato. Per te, per tutti. Cos'era quella pubblicità una volta? Eccolo qua che è tornato. Che contento. Ciao, Diego. Sei tornato. Sì. Che meraviglia. Abbiamo dovuto cominciare per forza senza di te, perché i tempi purtroppo stringono in questa radio. Io siccome vi ho toccato sono andato a lavarmi la mano, perché le mani la mano hai una sola, esatto. Che l'altra la tieni invece io ho una mano e tre gambe. Che ne usa solo una. Sempre una ne usa. Grazie di uomo. Aspetta che a me uomo, se si può dire cosa così, sta facendo, perché devi staccare l'appendicina in realtà non è altro che un primate che parla. Fatto di linguaggio. Sto microfono puzza. Che ci hai fatto? Non parla niente. Allora, che ci hai fatto col microfono? Per la nostra rassegna stampa settimanale, noi abbiamo qui un'edizione aggiornatissima di Chuck Gira, che sarebbe il periodico di informazione cinematografica, che è dell'anno settimo, il numero 8, che è dell'agosto 1991. Benissimo. Beh, ricordiamoci allora. Tanti anni fa, che cosa dicevano? Ma perché non siamo adesso nel 91? No, siamo un po' più. Non è appena uscito, non è agosto 91 adesso. Sì, ma siamo nel 91 del secolo prima. Esatto. Non interpretiamo quello che sta dicendo. Allora, hanno fatto Ritorno alla Laguna Blu. Poi hanno fatto FX2, Un bacio prima di morire e Come fare carriera puntini puntini molto disonestamente, con un giovanissimo Michael Caine. Poi Robin Hood, la leggenda e cose simili, insomma. C'è la foto di Obama, però. C'è la foto di Obama al secondo concorso nazionale Clio Genius. Non è una foto, è un disegno che sembra Obama. Sì, è un po' pallido comunque. Un po' pallido, ma sembra Obama. Sì. No, sono usciti tantissimi film questa settimana, tipo Uomini d'onore. Da non perdere Uomini d'onore di William Riley con John Turturro. Ricordatelo, John Turturro, famosissimo, quello che fa il burro. Catherine Barowitz, Rod Steiger, Dennis Farina. Sono mezzi morti. Oltretutto, poi è venuto fuori La fiammiferaia, la storia di Diego quando perdette il lavoro. che si ritrovò in mezzo a una strada a vendere fiammiferi. Che però era un nero. Si trovava praticamente a vendere fiammiferi o ad accendere sigarette agli sconosciuti. Però tutti mi volevano male perché ero nero. Poi c'è un altro film bellissimo che è Spalle nude, no? Sì. Che è la parodia praticamente mia, della, è la mia parodia. La tua parodia, sì. Sì, perché non ho più le spalle nude perché adesso sono ricoperte da peli. Sì. Esatto. Sì, Spalle nude era quando ti eri rasato. Esatto. La storia di Frego quando ti eri rasato. No, le comunque spalle. Adesso è sempre a Spalle nude, però senza la S. Ecco, poi c'è Leningrad. Leningrad Cowboys Go America. Che questa invece è la parte di Dennis. Esatto, sì. Esatto. Praticamente è la storia di Dennis. Di Dienis, anzi, esatto, è la storia di un russo, un ragazzo russo giovane che russo. In America. Esatto, che è andato in America cercando di fare carriera. L'hanno arrestato come spia comunista. E l'hanno. Infatti, poi subito dopo l'hanno arrestato. E subito dopo c'è Stato di Grazia. Un altro film. Stato di Grazia. Il protagonista è Grazia. Graziella e grazie al cazzo. Esatto. L'hanno graziato, ma il lavoro non l'ha trovato ancora. Esatto. Questo è il cartellone. Poi c'è Raff in concerto tour 1991, ancora presentato grande dalla birra San Suci. Sì, com'è che era quella della fisico? No, fisico no, bestiale, no, quella carbone. Ci vuole un fisico. No, quella è carbone. Battito animale. Ma c'è anche Biagio Antonacci. Batte come non c'è. Che c'è un tiro micidiale che questa, ti però prende, che ti porta via con me. Ma io penso che stiate sparando una marea di cazzate. Esatto, allora. Però ragazzi, c'è il nuovo album di Ivana Spagna. Olè, ragazzi. Olè, direi. Visto che è Spagna. Ma in inglese o in italiano? No, in inglese è No Way Out. Oh my god. Benissimo, andiamo avanti allora qui play, in CD e in musicassetta naturalmente. Radio Sandona 102.100, un gruppo preferito di Diego, gli Ed Gay. Gli Ed Guy. Gli Ed Gay, giusto. Sì, vi ascolto sempre io. Vai. Questa era la nostra ballad. Grazie. Da dedicare appunto in questo momento natalizio. Non era la ballad, ma era la ballad. No, non è una ballad, bellissimo, è un bellissimo successo degli Guy, Wash Away the Poison, una bellissima canzone del 1987 del Sanremo appunto qui. Che mi ricordo che quell'anno là con chi è che aveva partecipato aveva tempo. Partecipato allora con Mango, la canzone era Dal cuore in poi, poi c'era Patti Bravo con Pigramente signora, bellissime canzoni naturalmente, sì, sì, sì. Canzoni poi c'è ricche di pathos, sì, e poi c'è un discorso da fare e non si finisce mai l'esteta, quello che le donne non dicono, ma che bella storia. Canto per te la notte dei pensieri, il Garibaldi innamorato, campi d'atterraggio. Queste erano le canzoni. Pensate che titoli di merda. Rispettivamente di Dori Ghezzi, Paolo Scheriani, Fiorella Mannoia, Teo, Flavia Fortunato, Zarrillo, Sergio Caputo, Chiari e Forti. Hai Caputo? Hai sì. Caputo? Comunque volevo anche annunciare l'uscita del nuovissimo album di Barry White, The Man Is Back. Mi raccomando, non perdetelo, lo potete trovare nei migliori negozi di dischi. E un saluto naturalmente al grandissimo attore Rock Hudson, Rock Hudson, perché mia madre lo chiama Rock Hudson, perché John Vine è Rock Hudson, eccetera eccetera, mentre mio fratello diceva no mamma, non si dice Rock Hudson, si dice Rock Hudson. Lei però che cazzo non aveva questo rock. Lei però ha tirato una sberla pensando che fosse una brutta parola. Beh, è vero, ma anche questo. Se no si sarebbe chiamato Coccazzon. Esatto. Comunque, a parte di gran cazzi che stiamo parlando, stavo leggendo qui una notizia. Anche Ick Dulas, comunque. Di sport, visto che siamo comunque nel periodo natalizio. Questo o di sport, quello che pratica Diego. Diego sport. Pratica lo sport. Esatto. Nuoto tra l'immondizia. No, questo comunque è un serbo. Si chiama Darko Novovic. Non serve, è entrato nessuno, nel Guinness dei primati percorrendo a nuoto 5450 km nel Rio delle Amazzoni in 46 giorni. Nuovo record assoluto che spazza via il precedente primato di 66 giorni stabilito nell'immenso fiume sudamericano dallo sloveno Martin Strel. Buffonate, le faccio ogni mattina io. Novovic, sì, che ha 37 anni, originario del Montenegro, ex pallanuotista del Partizan, ha nuotato in media 16 ore al giorno percorrendo quotidianamente 118 km senza essere mai stato divorato da un coccodrillo. Sì, ma il Montenegro ci sta bene, nella Macedonia. Simpaticone. Abbiamo capito che comunque nel mondo è pieno di gente che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera e si mettono a nuotare per migliaia di chilometri. Quella che corre, la madre che corre, la donna quarantenne che corre tutta l'Australia, la ricordate? Sì. Questo qua si mette a fare nuoto. Sì. Tutta gente che ha tanto da lavorare. Tutti Dennis, tu potresti farle, Dennis. Ma io ho già tantissime cose da fare, devo rompere le balle a Diego, a Frego, alla Bubina. Un saluto alla Bubina, un bacione alla Bubina. Ciao Bubina. Sentiamo anche la Gigina, la Bubina e la Friulanina. La Friulanina. Sì, Mandy. Ok, Mandy, c'è molto la venga. Ciao Ine, ciao Ine. Ciao Ine, ciao. Stai zitto, porco. Vabbè, comunque buon Natale a tutti, buon panettone a tutti, buon torrone a tutti. Sì, sì, esatto. Terroni come me, poi i torroni. Ciao bravi terroni, poi. Come andiamo avanti a dilaniarvi un altro po' con Yana e Leito. Sì. Ascoltate. Madonna che duri che sono questi. Ascolta che bene. Il chitarrone è duro qui, eh. Ah, in bomba. Vai col chitarrone, vai col chitarrone. Critical condition grave, target invincible, target insane, built to terminate, built to kill, to crush its victims, destroy at will. Of agony, of sacrifice, bodies they multiply, deadly device. Deadly. Questa stagione calda, in questo calda estate, è giusto vero, sono estate, ma sì, in questa calda estate ricordiamo i nati in agosto, come per esempio Giancarlo Giannini, Rosanna Arquette, Peter O'Toole, Martin Sheen, Jerry Skolimowski, Robert McMoon, Dustin Hoffman, Peter Weir, Kate Carradine, Samuel Fuller, Robert Mueller, Timothy Hutton, Robert De Niro, Chantin, Marirara, Gianni Moretti, e Diego e Frego, naturalmente. Anche loro sono nati in agosto, grazie. Vero, eh? Sì, i mitici Diego e Frego sono nati, quindi la maggior parte del DFD è nata in agosto. Esatto, invece tu, Dennis, se non ricordo male, nella festa della donna. Esatto. L'8 marzo. Solo un Dennis poteva nascere l'8 marzo. E ringrazio e saluto tutti gli 8 marzini. È il regalo del mondo a tutte le donne. Tutte le donne che per Capodanno, qui vedo una notizia dell'ANSA, più 1 milione di donne a dieta dopo le feste. Dopo i brindisi e gli eccessi a tavola nel cenone di fine anno, il pentimento, perché vi ritrovate ingozzate ma piena di cellulite. Ma non c'è pericolo per questo. A 20 anni le ragazze sono a dieta perché devono fare le modelle. Sì, infatti Diego, c'è scritto anche qui, sono oltre 1 milione le italiane a dieta dopo le feste. A correre ai ripari sono soprattutto le donne tra i 35 e i 44 anni, giusto, no, appunto come hai detto tu. Poi aspetta, poi a 30 anni per ricorrere ai rimedi, perché comunque il fisico non tiene più, allora sono ancora a dieta. A 40 anni si separano ma vogliono gli alimenti, perché? Perché hanno fame, hanno fatto. Allora non sei più a dieta? Ma giusto, però non sei giusto. Più a dieta adesso, quello che sei separato, hai bisogno degli alimenti. Ma allora io dico, perché dovete mangiare, ridurvi poi e dei sudiciumi poi, come questo me? Questo te lo posso spiegare come io. Come me che non sono donna, ma sono così. Io sono questo uomo, sei uomo, è grande, grosso, grosso è bello, ma donna grossa è cessa. Quindi no, ma è una convenzione sociale anche questa, cioè sì. Il fatto che il grasso non sia bello è tutto relativo, insomma. Perché tutto è bello, perché ciò che è bello. Dai magri, sì, diciamo, capito? Che tante donne invidiano Frego. Esatto, ecco. Perché ho le tette. Esatto, per quello. Esatto, perché ho anche le tette. Comunque diciamo che il fatto di mangiare a Natale, a Capodanno, alle festività è una cosa assolutamente normale dal punto di vista del... Esatto, anche perché della, si crede della che socialità, nel periodo natalizio si ingrassi almeno dai 3 ai 5 kg. Non è male sta cosa, no. Poi dipende anche quanto si va di corpo, perché alla esattamente, fine... Esattamente, poi bisogna stare attenti per i problemi di emarroidi. Esatto. Comunque c'è la preparazione anche, esatto. Sì. O come il nostro amico Adriano con l'apposito applicatore. Esattamente. Vabbè, ma lui lo usa come burro cacao. Ma chi? Il nostro amico Adriano. Un saluto ad Adriano, naturalmente. Un saluto alla spalmattina anche per noi. Esatto, sì, divertiti con l'applicatore. Andiamo avanti a fare un po' di guerriglia urbana. Vai, vai. War Paint! War Paint! War Paint! Natale e bisogna essere tutti più quanti più buoni. A parte fate essere più buoni. Col cazzo. Io sono bastardo e sarò bastardo sempre. Questo è positivo. Comunque, noi siamo bastardi. Bastardo. Sfogliando questa bellissima risi... Bastardo. Bastardo. Eccolo là. Perché a Natale bisogna essere più bastardi. Hola. Allora, un saluto dai bastardi, tutti i bastardi del mondo, mi raccomando, continuate così. Ciao, sfogliando, io sono bastardo, la rivista, sfogliando la rivista di qui sopra, ho notato una bellissima pubblicità di un'autovettura del 1991. Cioè, adesso abbiamo le macchine, noi tutte con il computer che ti parla, che sì, il navigatore, touch, l'LSP, voce, l'airbag, le ruote sterzanti, i fari, magari ci fosse la macchina che touch, i fari che no touch, no touch, tranquillo, magari ci fosse pure Diego che no touch, sì, ma invece, sì, bello, invece non, ma se ci fosse anche un sack sarebbe meglio, è un sack. Quindi un Dennis, continuiamo pure. Stavamo notando poc'anzi qui in redazione, naturalmente, che c'era appunto questa pubblicità e in confronto alle auto d'oggi ci fa abbastanza ridere. Allora, questa era una Fiat Uno Rap, versione Rap, 1991, da 12.471.000 lire, 6.000 euro, 6.200 euro. Adesso una Lancia Y costa 15.000 euro, attenzione. Bene. Comunque, vabbè, sono passati anche i tempi. Sono passati 20 anni, quindi è normale. Questa qui, pensate, aveva il tetto apribile, ed era una cosa eccezionale all'epoca, avrete detto, i pneumatici ribassati, che sono come quelli della mia bicicletta di adesso. Il colore, la vettura con il colore dei paraurti, cioè il paraurti col colore della vettura, scusate. Che optional. Ho fatto un'inversione perché ho la retromarcia anche. Che optional. Cioè, poi... Gli specchietti oh, finalmente sono arrivate, guardate gli specchietti esterni con la vettura e il motore mille fire, addirittura esatto. Il motore mille fire, a me mi viene da ridere perché non ho mai avuto una macchina così tecnologica. Esatto, la mia bicicletta c'ha un 1200, cioè, comunque tipo... Ragazze, buon Natale, sono venute a trovarci le ragazze che di solito dovevano... entrate, buon Natale, felice anno nuovo, accomodatevi. Ecco, avvicinatevi di più perché altrimenti non si capisce nulla. Ciao hello. Forse allora, avrete Aleo, Aleo ha salutato Leo, lei ha detto Aleo, ciao, Aleo. Leo. Questa ciao, salutiamo Leo. Ciao Leo, grazie. Questa sa anche l'inglese, faccio la fissa con quella di porta. Non si sente, non stai si vicino al microfono. Che ha detto? Ha parlato anche in un ugandusurmundese. Metti la bocca vicino al microfono. Ha detto un promuovere il nostro programma, noi veniamo da Lipstick Lagoon, quindi saliamo di grado. Cioè, non voglio che lingua è, scusa? Lipstick Lagoon. Parla un attimo, abbiamo capito che parlo in inglese. Vi ho sentito l'ultima volta fare lo spelling parola per parola. In zambese. In zambolagrumbese. Ci seguite anche voi? Quindici ascoltatori. Tutti i giorni. Yeah, we go. Sa anche lei l'inglese. Minchia ragazzi, che bravo. Amici del gruppo. È vero. Per allora dai i nostri contatti su Facebook, così. Allora, su Facebook è lui che deve darli. Non guardate me. No, adesso glielo spieghi con la LIS, con il linguaggio dei segni, vai. Esatto. Allora. Perfetto. Ok. Punto. Va bene, perfetto. Benissimo, perfetto, okay. L'avete capito anche voi a casa, sicuramente. Il nostro contatto Facebook è... Vai, dillo, vai, pronto, sto vai. Dicendo. No, ma no, con il linguaggio normale adesso, con il linguaggio di saluto agli amici. Ma quale? Devi dirlo, scusate, dillo, c'è un po' di ranseghi. Allora, per gli SMS 3484161271. Ok, ci siamo, Per Facebook SMS. DFD. DFD. Facebook è difficile. DFD. Allora, DFD team 360 in parole. Tutti parole, Sì, e sì. Dopo vai. Per la mail DFD 360 chiocciola Yahoo! That's IT! Avete capito qualcosa, ragazzi? Dopo ce lo scrivete. Dopo vi mandiamo un SMS col 348-416-2771. No, bisogna prima imparare a scrivere, poi vediamo. Infatti, comunque, prima ragazzi, impariamo a scrivere. Poi. Diteci il vostro nome. Diceti. Jessica. Un'altra Jessica. Double Jessica. Che fantasia. Jessica. Rachele. Rachele. Jessica. Nadine, Rachele, Jessica, Jessica. C'est français, Nadine, c'est français. C'est union français, oui, oui. Ah, Maria Vergine, vediamo un attimo. Nadine e Nadine. C'est bon, sì. Vabbè, ragazzi. E i vostri nomi? DFD, DFD, Diego, Frego, no. Dennis. Esatto, Diego, Frego, Dennis. Lui è Diego, lui è Frego, io sono Dennis. Benissimo. Mi sembra giusto, insomma, mi sembra scontato. Esatto, bene, adesso ragazzi, voi cosa fate? Andate via? Andiamo a Nanna, grazie. A Nanna, quest'ora, a Nanna, così quest'ora, presto, il pomeriggio, primo pomeriggio così. Meglio non indagare. Michella, sai. Ma ha svirgolato un timpano. Ma ha assordato l'orecchio, sta diventando giovane. No, nessun problema, ha detto Penichella, ha detto. Sì. Volevo dire un'altra cosa, meglio non dire niente. Adesso lei era pronta con un mal rovescio qui. Infatti per quello. Ragazzi, allora organizziamo per la prossima settimana, come i nostri amici colleghi di Radio DJ, una settimana tutti insieme, visto che loro hanno fatto il record del mondo, erano in 48 mi sembra, dentro nella radio, hanno fatto una puntata grande, di un'ora e mezza, credo. Noi la prossima settimana, o la settimana seguente, la prossima, ci troveremo magari tutti qui e facciamo il record direttamente qui su Radio Sandana 102-200 con più di 48 persone che verranno qui a lavorare per circa un'ora e mezza. Oppure 8 persone in questo studio che sono più di 48 su quello di Radio DJ. Esatto. Esatto. Già in tre stiamo stretti. Esatto. Sì. Spostati. Dai cazzo. Anche perché non abbiamo fastidio. Benissimo. Ecco, bene. Andiamo avanti. Ultima canzone. Ultima canzone. Rammstein. Rutsch ganz dicht an mich heran. Vor dem Bett ein schwarzes Loch. Und hinein fällt jedes Schaf. Bin schon zu alt und zähl sie doch. Denn ich finde keinen Schlaf. Siamo tornati in onda sempre qui su Radio Sandana 112. Vi ho preso il fragrante. Siamo qui, siamo problema. Gente. Siamo capaci di improvvisare sempre in qualsiasi momento. Sì, sì, sì. Eccomi. Capra. Non mi sento. Fascista, comunista. Capra. Vergogna. Vergogna. Vergogna. Silenzio, a noi non ce ne frega assolutamente niente. Un saluto alla pecora gialla qui dietro di me, naturalmente. Come abbiamo detto la scorsa 10 minuti fa, come abbiamo detto 20 anni in questa fa, questa puntata noi siamo assolutamente dei bastardi e del Natale non ce ne frega assolutamente, sì, assolutamente. No, infatti, dai, non diciamo così. E infatti adesso, visto che io non sono bastardo, vi do appuntamento per il live di Badri Dragon Boy il 25 luglio del 2000, del, quando è quello? E come ospite 25 luglio, comunque è passato luglio. Mi raccomando, domenica 25 luglio, non perdete. Esattamente, ragazzi, abbiamo ospite il trio Darky, ragazzi, scusate ma abbiamo sfoderato i tempi, quindi bisogna un attimo finire. Un saluto a tutti quanti, diamo un saluto generale, ragazzi, insieme, ragazzi, tutti insieme. Ciao. Ciao. Picchi sono andati a farsi fottere. Ma chi se ne